La candela da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Dall'Olimpo, soggiorno almo e giocondo, venner le pecchie ad abitar nel mondo, e prima ritrovar dolce ricetto sui gioghi dell'imetro, ove stillar quanti nel sen dei fiori van spargendo gli zeferi tesori. L'uomo imparò dalle costrutte celle a spremer l'ambrosia, onde le belle figlie del ciel riempiono i soavi e elaborati favi. E poi che da mangiar più nulla c'era, fece candele con la bianca cera. Una di queste intese dire un giorno che diventa il matton cotto nel forno, così duro e tenace che può vincer del tempo il dente ed ace. E come il pazzo Empedocle provò, nella fornace anch'essa si gettò. Questa candela nella sua follia mostrò di non saper filosofia. Ciascun ha un modo suo di stare al mondo, l'uno galleggia e l'altro cade in fondo. Empedocle di cera, e non mestolta, fu dalla brace subito disciolta. Fine della favola, la candela. Questa registrazione è di dominio pubblico.